Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Italiani preoccupati per la crisi, ma pur sempre formiche. Secondo il rapporto sul risparmio dell'ACRI, e la casa resta l'investimento preferito. Oltre 150 le vittime in Indonesia, ma si cercano ancora 500 persone. Si risveglia un altro vulcano. Il figlio di Ciancimino è indagato per mafia. Levarsi di dosso l'infamia di un cognome non è facile, commenta ai nostri microfoni. Donne nei consigli di amministrazione per legge, il presidente dei giovani di Confindustria Federica Guidi, serve uno scossone per provocare culturalmente il paese. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Parliamo dunque in apertura delle famiglie italiane e la loro capacità di risparmiare. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Il rapporto tra la crisi internazionale e gli italiani, il risparmio, i consumi, la fiducia nel prossimo futuro, tutto ciò è al centro della decima indagine realizzata dall'ACRI per la 86esima giornata mondiale del risparmio. E da allora i nostri connazionali restano prudenti e preoccupati, con un crescente pessimismo sul futuro dell'economia e sull'uscita dalla congiuntura. C'è quindi un atteggiamento di attendismo, segnala l'indagine elaborata dall'Ipsos. Il paese viene percepito come poco reattivo alla crisi, ma anche sulla ripresa globale gli italiani fanno affidamento meno che in passato. Sul fronte del risparmio le percentuali restano in linea con gli andamenti degli ultimi anni, il 36% riesce a risparmiare, il 37% sono però quelli che consumano tutto ciò che guadagnano. Di fatto una famiglia su quattro è costretta ad indebitarsi o ad attingere ai propri risparmi. A livello geografico sono in affanno soprattutto i risparmiatori del sud. Su Italia la spesa pubblica, gli italiani dicono no a risparmi sulla sanità. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. E stamattina giudizio severo da parte di Moody's sulle banche italiane. Le prospettive del sistema bancario italiano restano negative a causa delle modeste proiezioni a breve termine di redditività e del protrarsi del quadro operativo sfavorevole, fa sapere Moody's. Il commento dell'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passera, al microfono di Nicola Filippone. Ma io non credo che sia un sistema bancario in difficoltà, credo che le banche italiane siano oggettivamente passate attraverso la crisi molto meglio di altre. Nel caso nostro credo che lo dimostrino un po' i dati e anche il nostro comportamento in termini di forza patrimoniale e contemporaneamente di grande forza sia di liquidità con basso indebitamento. Alcune banche italiane, molte, sicuramente noi tra queste, abbiamo deciso di essere banche dell'economia reale molto solide, ripeto, non solo in termini patrimoniali ma anche di liquidità e di indebitamento. Andiamo all'estero, cresce di ora in ora il numero delle vittime per il terremoto e lo tsunami in Indonesia, intanto ora a preoccupare è anche un altro vulcano. È difficile raggiungere le aree colpite e portare aiuti. Per ora ci sono 500 persone che sono state dichiarate disperse. I morti sono oltre 150. Stiamo ricevendo segnalazioni di mancanza di cibo perché intere aree sono allagate e purtroppo non riusciamo a portare neppure i beni di prima necessità. In poche parole, il dottor Dave Junkins di una ONG internazionale, la Surf Aid International, fotografa una situazione devastante per la costa di Sumatra in Indonesia, dove un terremoto di magnitudo 7.7 ha scatenato uno tsunami che ha colpito un'area già in ginocchio dal terremoto dell'anno scorso. La Surf Aid è una ONG sostenuta soprattutto dalla comunità di surfisti che in Indonesia ama trascorrere del tempo a inseguire l'onda perfetta. Oggi l'impegno è cercare di dare conforto alle centinaia di persone che sono sfuggite a un'onda alta 6 metri che è penetrata per 600 metri nell'entroterra. Alla già difficile situazione si somma ora anche il risveglio di uno tra i più potenti e pericolosi vulcani dell'Indonesia, il vulcano Merapi, nel centro dell'isola di Giava, che è entrato in azione eruttando cenere dai crateri minori, ferendo una ventina di persone e uccidendone 12. Il peggio potrebbe arrivare con un'imminente colata lavica. Per questo circa 20.000 persone sono state evacuate nelle ultime ore. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo dall'altra parte del mondo, ad Haiti, dove il colera è arrivato a 300 vittime. Non c'è pace per lo Stato caraibico, già devastato dal terremoto del 12 gennaio scorso. Ambra Notari ha raggiunto al telefono Chiara Del Miglio, volontaria della Fondazione Rava, impegnata da anni sull'isola a sostegno soprattutto dell'infanzia. Adesso sono appunto all'ospedale San Daniele, l'ospedale della Fondazione Francesca Rava. In questo momento qui non ci sono malati di colera perché, grazie al cielo, nella capitale Port-au-Prince il colera non è ancora arrivato. È molto difficile poter dire quanti sono in realtà le persone colpite, infette, quanti anche i morti, perché alcune zone non sono proprio raggiungibili in macchina. Nella sfortuna, c'è stata questa piccola fortuna per cui quantomeno il colera ha colpito le zone dove non è arrivato il terremoto, qui cerca di far sì che il problema colera rimanga circoscritto nelle zone a nord, che sono quelle che almeno da un punto di vista del sono state meno colpite. Purtroppo le emergenze ci sono in tutto il paese, su mille fronti, mille catastrofi naturali, l'uragano che è appena passato, il terremoto, il colera, e si cerca di lavorare il più possibile un po' in tutto il paese. Prima del terremoto c'era stato un momento in cui veramente ero venuta a dicembre, quindi proprio a due settimane dal terremoto, e veramente per la prima volta ho detto: ah, vedo Haiti che si sta rimettendo in piedi. Post terremoto ovviamente un pochino si crolla tutto addosso, nel senso che dici tanta fatica, vedi il paese che si rimette in piedi e tutto torna a cadere, a sgretolarsi. A volte uno sente un po' accusare, perché quando si fa questo lavoro ti dicono: ah, pensi di salvare il mondo. Quello che noi ci mettiamo a dire è che salvare anche solo una vita in realtà è qualcosa di eccezionale. In Arizona ha ucciso Jeffrey Landrigan, responsabile di un omicidio commesso nell'89. La sua esecuzione era stata sospesa ieri da una corte federale che aveva accolto le obiezioni sull'efficacia dell'anestetico comprato all'estero perché non più garantito dall'azienda americana. Torniamo in Italia con il dibattito politico sulla giustizia. Ci colleghiamo con Elisabetta Ferito. Sì, buongiorno Piera. Da una parte ottimismo, dall'altra pessimismo. La maggioranza è divisa sul lodo Alfano. Il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Carlo Vizzini, è convinto che si raggiungerà un accordo dopo la riapertura ieri del termine di presentazione degli emendamenti. Ma sentiamo Vizzini. Il tema della reiterabilità. Ci sono dei margini per poter dare una risposta alle esigenze senza contravvenire a quello che è anche il rigore delle garanzie, che non possono essere collegate soltanto ad un tempo. Ci vuole buona volontà e pensare che da questo può dipendere un governo più coeso. Ma i falchi di Futuro e Libertà non sono d'accordo, il lodo Alfano è legato troppo a Silvio Berlusconi, lo dicono Fabio Granata e Carmelo Briguglio. Sentiamo Briguglio. In questi ultimi giorni io credo che nell'immaginario degli italiani, e io credo nella stragrande maggioranza degli elettori di centrodestra, il lodo Alfano sia diventato il simbolo dell'impunità, e per cui Futuro e Libertà, secondo me, non deve votare il lodo Alfano. Intanto il capogruppo di Futuro e Libertà in Commissione Affari Costituzionali del Senato, Maurizio Saia, spiega che il gruppo presenterà un emendamento sulla possibilità di reiterare lo scudo. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E ora l'indagine che riguarda Ciancimino, inquisito per mafia. Il figlio dell'ex sindaco, condannato per appartenenza a Cosa Nostra e morto nel 2002, avrebbe fatto da tramite fra il padre e Provenzano. Sentiamo al microfono di Raffaella Calandra, appunto, Vito Ciancimino. Un atto che suggella la credibilità di quanto ho detto. Ovviamente questo anche per tutti quelli che nel tempo hanno sempre detto che avevo preso questo atteggiamento per avere dei favori, degli sconti. Il percorso di chi vuole un po' levarsi di dosso l'infamia di un cognome non è facile. Sapevo di andare incontro anche a questo, e anche per questo che più volte ho esitato nella consegna dei documenti che di fatto avrebbero potuto compromettere la mia posizione giudiziaria. La sua iscrizione è nell'ambito del fascicolo sulla presunta trattativa Stato-mafia? Sì, assolutamente sì. È chiaro che non sono il suo iscritto, ovviamente, che se è stato ritenuto credibile quello che ho detto, anche quello, cioè, dei personaggi di cui ho parlato e le notizie che ho dato, ovviamente saranno oggetto di attenzione da parte della magistratura. Lei ha terminato di consegnare i suoi documenti o ce ne sono degli altri? No, io ho terminato, non c'è altra documentazione, che la stessa non si è ritrovata dai clienti in località non, diciamo, a mia disposizione. Ovviamente io ho dato anche indicazioni in tal senso dove poter reperire documentazione, dove è compito la magistratura. Restiamo a Palermo per importanti arresti nella notte. Con un provvedimento d'urgenza, il fermo, i carabinieri di Palermo hanno potuto interrompere il racket del pizzo nella zona ovest del capoluogo siciliano. I quattro fermati, su mandato della DDA, sono Sandro Di Fiore, di 33 anni, Gioacchino Intravaia, di 57, Giovanni San Marco, di 51 anni e Domenico Giordano, di 54. I primi tre sono ai vertici delle cosche mafiose di Resuttana e Tommaso Natale. Il quarto, invece, Domenico Giordano, titolare di una pescheria nei pressi del velodromo, è il boss della cosca di Partanna Mondello. A denunciarlo il fratello, Salvatore Giordano, collaboratore di giustizia che dallo scorso febbraio, con le sue dichiarazioni, ha contribuito alle indagini. Importante per l'inchiesta è il ruolo non solo dei collaboratori di giustizia, ma soprattutto delle vittime del pizzo, che hanno contribuito attivamente con le loro testimonianze. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora in Sicilia, perché è stato accolto il ricorso della compagnia texana Panther Oil, che dal 2004 tenta di trivellare le campagne fra Noto, Ragusa e Vittoria. Nei fatti, la decisione dei giudici non dà il via libera alle trivelle, ma segna un punto a favore della compagnia. Non cerchiamo petrolio, ma solo gas, e il gas è pulito. Lo slogan è della compagnia texana Panther Oil, che su quell'area ha puntato gli occhi e non intende rinunciare all'affare, nonostante gli stop e i via libera che si sono rincorsi in questi anni e che forse avrebbero sfiancato i più. Sarà anche pulito il gas, ma la compagnia vorrebbe trivellare a poco più di 2 chilometri in linea d'aria dalla cattedrale barocca, proprio quella crollata nel 96 e riaperta nel 2007. Senza contare che nell'area compresa tra Noto, Vittoria e Ragusa sono stati spesi soldi, molti soldi, per la riqualificazione. La regione potrebbe chiudere la vicenda con una legge ad hoc. Dunque i sindaci, tra cui Corrado Valvo, primo cittadino di Noto, reclamano chiarezza. Io ho richiesto un intervento chiaro e inequivoco da parte della regione siciliana. Non è più possibile continuare con trivellazioni in una zona, in una terra che già ha dato. Non c'è un piano che ritenga che questo ulteriore gas o petrolio possa fornire ulteriore energia a questa terra, e quindi bisognerebbe che oggi, in una terra che esprime invece grande cultura, grande arte, soprattutto grande patrimonio anche ambientale, si faccia una politica differente. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato degli italiani, preoccupati sì per la crisi, ma pur sempre formichine, secondo il rapporto sul risparmio dell'ACRI, e la casa resta l'investimento preferito. Oltre 150 le vittime accertate in Indonesia, ma si cercano ancora 500 dispersi e si risveglia intanto un altro vulcano. Il figlio di Ciancimino è indagato per mafia, levarsi di dosso l'infamia di un cognome non è facile, commenta ai nostri microfoni. Ripartiamo parlando di quote rosa all'interno dei consigli di amministrazione delle aziende. Donne dunque al comando, potrebbe essere presto una realtà anche in Italia, dove attualmente la presenza femminile rappresenta, pensate, solo il 6,9% dei membri dei CDA delle società quotate. Il governo infatti dovrebbe dare nei prossimi giorni il via libera ad una proposta bipartisan che punta a rendere obbligatoria una quota femminile del 30%. Ma un provvedimento del genere potrebbe davvero risolvere la disparità uomo-donna nei luoghi di lavoro? Alessandra Schepisi lo ha chiesto alla presidente dei giovani di Confindustria, Federica Guidi. Io sono, diciamo, di solito contraria in linea di massima a interventi, come dire, disciplinati da regole o da leggi o da regolamenti su questi temi, perché credo che, voglio dire, siano il sintomo di qualcosa che non va a livello culturale. È vero però che probabilmente serve uno scossone, ecco, serve uno shock per in qualche modo provocare culturalmente il paese sul fatto che effettivamente c'è un problema ancora oggi, insomma, della presenza, io dico la presenza delle donne nel mondo del lavoro in generale. Ecco. Dopodiché i paesi del nord Europa sappiamo che hanno utilizzato queste formule di regolamentazione con successo, è vero però anche che sono paesi dove le politiche conciliative sono molto più forti, sostengono molto di più, ecco, le donne nel loro percorso di carriera, levando, diciamo, l'incombenza della vita, chiamiamola così, familiare, e credo che sia lì il punto, non tanto, diciamo, un intervento regolamentare, ecco. Ed ora il nostro appuntamento con l'Italia che riparte. 20 di ripresa, l'Italia che riparte. Nel 2010 siamo in netta ripresa rispetto al 2009, e nel 2009 abbiamo perso il 29%, nel 2010 siamo il 31% in più, quindi ci stiamo avvicinando al fatturato precedente. A sottolineare il ritorno allo sviluppo della sua azienda è l'ingegner Gennaro Pieralisi, cavaliere del lavoro e amministratore delegato del gruppo Pieralisi, leader mondiale nella progettazione e costruzione di macchine per oleifici e impianti per l'estrazione dell'olio d'oliva e frantoi con macine in granito. Il gruppo Pieralisi conta oggi 19 insediamenti produttivi e commerciali strategicamente dislocati in Europa e nel mondo, e il suo percorso è iniziato addirittura nel 1888. Ecco le leve strategiche. Primo, un po' di fortuna, perché è cambiato il rapporto dollaro-euro e quindi questo ha facilitato la vendita sui mercati stranieri. Secondo, abbiamo abbassato i prezzi perché abbiamo ritenuto prioritario salvaguardare l'integrità dell'azienda, compresa la parte che riguarda le nostre maestranze, e anziché salvaguardare solamente il bilancio. Dove c'è un olivo c'è Pieralisi. Noi siamo presenti su 39 mercati esteri. Difatti la crescita è stata soprattutto sull'estero. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Oltre 5 milioni di immigrati regolari in Italia. Ieri vi raccontavamo proprio nel GR delle 13 del rapporto Caritas Migrantes di come cambiano i nuovi italiani che nel nostro paese lavorano, fanno nascere delle aziende e, non ultimo, consentono al nostro sistema pensionistico di restare in piedi. Franco Pittau, responsabile del dossier migrazione della Caritas Migrantes, al microfono di Alessandro Milan. La proiezione che noi abbiamo fatto ci dice che ci sarà un differenziale di convenienza nel sistema di pensionamento, perché attualmente il flusso di pensionati, quelli che si avvicinano all'età della pensione, per gli immigrati è del 2%, perché sono molto più giovani. Nel 2025 saranno il 12%, è sempre una grande convenienza, perché nel 2025 tra gli italiani ci sarà uno su tre pensionato, quindi noi abbiamo bisogno di questi giovani che aiutino il sistema pensionistico. E l'immigrazione era al centro del nostro sondaggio dopo che il Papa ha detto che emigrare è un diritto e l'accoglienza degli stati un dovere. Siete d'accordo con questa posizione, vi chiedevamo? Vi siete divisi, hanno prevalso di poco i no, con il 52%. La morte di Sara Scazzi sarebbe imminente, un incidente probatorio per Michele Misseri, lo zio della ragazza che si è accusato del delitto. L'uomo, secondo quanto riferì nei giorni scorsi il suo difensore, avrebbe manifestato all'avvocato l'intenzione di ritrattare le sue dichiarazioni. E la Procura di Roma ha aperto un fascicolo processuale per accertare la dotazione dei sistemi di sicurezza delle minicar, le auto guidate soprattutto da minorenni, e se questi rispondano ai criteri di omologazione dei mezzi. In Procura tuttavia si esclude che si possa ad arrivare ad un blocco delle minicar, che sono state protagoniste, come ricorderete purtroppo, di molti gravi incidenti, anche mortali. 8 famiglie, 4 italiane e 4 straniere, sono finite sul web del comune di Pont San Martin in Val d'Aosta. Non pagano le rette dell'asilo dei figli citati, con tanto di nome e cognome. Non una grande bella idea, secondo noi, abbiamo fatto notare al sindaco di Pont San Martin, Guido Ioia. Per una questione di sensibilità condivido con lei che si poteva mettere il nome del minore e mettere più genericamente mancato pagamento retta scolastica. Perché c'erano anche appunto i nomi dei bambini. Ecco. Esatto, il nome dei bambini. L'avete fatti sparire ora? Per quanto riguarda il futuro ho già dato disposizioni in merito, ho concordato con i funzionari che non procedono più in questo modo, ma siano più sensibili a questa... anche se loro mi ribadiscono che hanno solo seguito quelle che sono le procedure di legge. Prima di arrivare a questo punto c'è tutta una procedura che è abbastanza lunga, nel quale vengono contattate le persone, vengono motivate a pagare, concordare magari un rientro. Non pagano, però mi chiedo anche come mai non hanno fatto le procedure normali, nonostante fossero stati invitati, di andare dall'assistente sociale, farsi fare la relazione per ottenere la gratuità. Cioè, ci sono tutti gli strumenti per poter fare le esenzioni e tutto, anche preventive. Se si arriva a questi punti è proprio anche per la noncuranza, la negligenza dell'utente, ecco. Interferenze illecite nella vita privata è quanto ipotizza la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo processuale in relazione a Google Street View, il sistema, come sapete, che permette di visionare dal proprio PC le strade di ogni località del mondo. E torniamo invece a parlare di bambini, in particolare di bambini e nuove tecnologie. Tre ragazzi su quattro sono lasciati completamente soli davanti al computer a casa. I loro genitori concedono molta autonomia perché pensano che i figli ne sappiano più di loro su internet, uso dei social network, videogiochi. Il 70% delle mamme e dei papà italiani prova a mettere dei limiti di tempo alla fruizione di PC, televisione e videogame, ma solo un ragazzo su tre li rispetta autonomamente. Gli altri pensano che i genitori non sappiano molto del mondo digitale e che quindi i loro richiami siano solo fastidiosi. È quanto emerge dalla ricerca People Ter des Hommes presentata oggi a Milano, in occasione della terza edizione del Child Guardian Award, co-organizzato dal gruppo 24 Ore. Che fare dunque? Il 46% dei genitori si dice disposto a prendere lezioni di Facebook e iPhone. Ma meglio fare in fretta, prima che il divario culturale sulle tecnologie si allarghi troppo e che i ragazzi, dalla punta dell'Everest digitale su cui sono, guardino con commiserazione i genitori nella fossa delle Marianne dell'ignoranza ai tech. Laura Laposta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E domani prende il via il Festival del Cinema di Roma, che noi seguiremo anche in questo spazio, nel GR delle 13, con collegamenti proprio da Roma. Un assaggio questa mattina e ci racconta tutto Massimiliano Zampini. Sì, buongiorno, un assaggio nel segno di Ugo Tognazzi, è l'assaggio giusto, vista la sua passione, che Ugo Tognazzi è il grande protagonista di questa apertura del Festival, avvent'anni della sua scomparsa, con un bellissimo documentario che gli ha dedicato la figlia Maria Sole, Ritratto di mio padre, un documentario che tocca tutti gli aspetti artistici della vita di Ugo Tognazzi, ma soprattutto tocca il personaggio, l'uomo, ovviamente il padre e l'animatore di tante serate nel famoso villaggio Tognazzi, dove si raccoglieva il meglio del cinema italiano. Un ritratto molto, molto bello, molto sentito da parte della figlia, che animerà il primo red carpet del festival, che si apre appunto con la preapertura di questa sera e con la famiglia Tognazzi che presenzierà alla proiezione di questo film. Domani il via con i primi divi, e sono attesi Keira Knightley e Eva Mendes, che sfileranno sul red carpet per il primo film in concorso, uno dei più attesi, Last Night, un red carpet che però domani vedrà anche la clamorosa protesta del movimento dei 100 autori, che protestano appunto contro i tagli alla cultura e al cinema, una protesta alla quale si associa Sole Tognazzi, che proprio sui tagli al cinema e alla cultura dà un giudizio molto severo. Sentiamo Maria Sole Tognazzi. Un paese che si rifiuta di investire nella cultura e nell'arte non risparmia, ma diventa inevitabilmente più povero. Grazie dunque a Massimiliano Zampini da Roma, e stanotte non siamo a Roma ma bensì dall'altra parte dell'oceano, è partito l'NBA. Dario Ricci. Sì, buongiorno, primi risultati dell'NBA e prime sorprese, in particolare cadono i grandi favoriti di quest'annata, i Miami Heat del trio delle meraviglie, sconfitti in casa dei Boston Celtics per 88-80. Per gli Heat non bastano i 31 punti di LeBron James, mentre deludono Dwayne Wade, 13 punti, e soprattutto l'ex Raptors Chris Bosh, appena 8 punti a referto. Per i Celtics ci sono 20 punti di Ray Allen e soprattutto una grande difesa. Buona la prima invece per i campioni in carica dei Los Angeles Lakers, che battono gli Houston Rockets 112-110. Kobe Bryant mette a segno 27 punti, ma il miglior marcatore dei californiani è Pau Gasol con 29 punti. E si è rivisto in campo nei Rockets il cinese Yao Ming, reduce da un lungo infortunio. Per lui 9 punti. Vince anche Portland, che supera Phoenix 106-92. Stanotte, tra le altre partite in programma, esordio per Andrea Bargnani e Danilo Gallinari, che si affrontano nella sfida tra Toronto e New York. Staremo a vedere. Per il momento è tutto. Grazie, grazie a Dario Ricci, e GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.